YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Ciao Daniele, benvenuto a Radio Tube. Stavo litigando col microfono, sì, per questo. È l'estate che ti rende. No, ridevo perché per questo. Sì, no, perché non... è indecisa tra il verde o il rosso. No, vabbè, allora voi dovete sapere che no. Col verde si col passa. Col verde si parla. Si parla a Valeria in regia. Col rosso si parla a tutti voi. No, perché in realtà se lo accende Valeria non lo posso accendere io. E quindi stavamo litigando con il microfonino che lo accendevamo entrambe. Noi siamo a RadioTube, sì. Et Marta Cagnola, sì. Et Di Bellasio. Dentro il sabato del villaggio, sì. D'estate. Dentro anche un po' fuori. Ah, senti, facciamo delle cose. Facciamo delle cose un po' estive. Aiuto. Dai, tipo? Sentiamoci un ci po' ci mettiamo d'estate. In costume. Sì, no. Guarda, secondo me ci sta bene il costume con i primi due temi almeno di questa sono puntata. Sono pronto. Allora, che cosa pronto, dà costume. Il vero via all'estate secondo te? Quando tu c'è una cosa dici ok, è estate. Ma guarda, il palinsesto televisivo d'estate, sì? È proprio, cioè assume una conformazione completamente diversa, cioè diventa il palinsesto d'estate. Le altre quindi stagioni sono tutte più o meno uguali. L'estate, sì, cambia completamente, no? Perfetto. Per esempio, arrivano quei film stupendi che noi abbiamo visto 18 volte e ogni volta c'è quella battuta in più, quella cosa in meno, come li chiameresti quei film lì della nostra... Sono quei film, tu intendi quelli un po' anni 80, quelli un po' delle belle commedie. Allora, per me il film che fa veramente estate, sì, a parte un certo genere di cui parleremo dopo, ma questo dopo la pausa... Eh? È Sapore di mare. Siamo i Batusi. Felicino, posso amare, non vuoi ballare? Ma che ballare e ballare? Ti ho detto 100 volte che non ho piacere che balli in questo modo. Ecco, non ho piacere. Ma se a Londra mi hai detto che ti eccitavi un sacco. A Londra mi eccitava, forte non ho piacere. Va bene, fine della trasmissione. Ma io volevo soltanto... Fine della trasmissione! Vorrei chiamare in causa un esperto perché capiamo con lui un po' il segreto di questi film che segnano l'inizio dell'estate. Enrico Tamburini, ciao Enrico! Ciao a tutti. Allora, lui è proprio espertissimo di commedia all'italiana. Allora, Sapore di mare è il film che dà l'inizio alla stagione estiva quando arriva in televisione, eh? È un cult, appena si vedono le prime immagini sai già che è estate, cioè proprio è entrato nel nostro cuore, no? Alla fine, anche perché ha una colonna sonora tipica proprio estiva, no? Quello riporta agli anni 60 comunque, a quelle estati dove insomma tanto care anche ai registi, no? I Vanzina, e ti buttano proprio, ti fanno venire voglia di mare, no? E a furia di vederli e rivederli entrano nel cuore, si conoscono le battute a memoria. Esatto, le battute a memoria, le sappiamo tutte a memoria perché è come se facessero parte perlomeno dell'immaginario almeno dei 30, 35, 40, 45 anni. In televisione ce li hanno sparati così tante volte che anche non volendo, no, magari sono diventati nostri, con modi di dire, modi di... nel parlare, le battute quotidiane sono secondo me studiati quasi ad hoc, eh? Devo dire che una che a me faceva impazzire era la figura appunto di Virnalisi, della signora Adriana. Sì, ma quando poi ho scoperto, riguardandolo, che lei, che era la signora quella un po' âgée, era in realtà più giovane di dell'età che ho io adesso. Mi sento un po' male. Vabbè, a star assoluta. Sì, perché all'epoca assoluta faceva la parte di questa signora âgée che probabilmente oggi avrebbe 60, sì, oggi avrebbe 60 anni, una donna piacente un po' più grande. Sì, beh certo, tutto è relativo. Esatto, all'epoca ne aveva 40. Però guarda, se ci pensi, è una cosa molto giusta che diceva Enrico, perché la cosa della colonna sonora intanto è decisiva, certo, perché ti viene voglia di rivedere il film anche perché risenti quel tipo di canzone che fa molto revival. Poi un'altra cosa, per la mia generazione, cioè che brutto, chiedo scusa a tutti i radioascoltatori. No, la mia generazione non esiste. Generazione. Se esiste ha perso, come dice Gaber. Ma volevo dire, no, Cioè gli anni 60 in realtà erano, cioè io ho in mente degli anni 60 Sapore di mare, perché c'era quell'ottimismo, quella spensieratezza, quella, quell'idea che l'Italia andava comunque sempre avanti, che in quel film lì, che alla fine in fondo non era, cioè non era candidato Oscar ancora, però ancora, è sì. stata una fotografia straordinaria di quegli anni. Enrico, era una scelta singolare però, cioè anni 80 che parlava degli, degli anni 60. Eh sì, ma era stata probabilmente proprio un'idea quella di puntare sul, sul revival, no? Sul rassicurante, sul tornare indietro, vedere un qualcosa che, diciamo, per far ritrovare lo spettatore delle sensazioni che aveva provato qualche anno prima, e quindi sicuramente è studiata questa cosa, anche perché da Sapore di mare, dallo stampo di Sapore di mare nasce Vacanze di Natale. Certo, vabbè, e lì siamo proprio nell'Olimpico, lì siamo all'Oscar. Sapore di mare era pre-Oscar e invece esatto. Vacanze di Natale è Oscar. No, non è estate Vacanze di Natale, però è lo stampo, no, sì. di Sapore di mare, e quindi da lì è nato un format con le colonne sonore, l'instant movie, che ok, l'instant movie non era Sapore di mare, parlava degli anni 60, Vacanze di Natale delle vacanze dell'83, no? Però è comunque un fatto di rivivere certe ambientazioni, certe musiche, certe sensazioni, no? E quindi no, però se ci pensate, Jerry Calà oggi, che tra l'altro abbiamo avuto ospite a Radio YouTube, salutiamo, la capannina la riempie ancora, quindi è un fenomeno quello lì di ricordare quegli anni, che evidentemente piace a tante generazioni e molto agli italiani. Probabilmente viene ricordato come il decennio, diciamo in un certo senso, più spensierato. Esatto, ma la capannina è anche meta di pellegrinaggi. Cioè, se si va là, se si va a Forte dei Marmi, si va a vedere la capannina. Cioè, non ci sono discussioni, si va, perché... Enrico, tu hai parlato dell'effetto rassicurante che c'è anche nel rivedere questo film sì. ogni anno. Sì. Un effetto rassicurante, secondo me, imbattibile, anche quello dei telefilm, come li chiamavamo all'epoca, delle serie TV anni 80, anche un po' anni 70, che tornano nei pertugi del palinsesto estivo. Signora in giallo a parte, perché negli ultimi anni ha cominciato anche ad essere protagonista di altri mesi del calendario, il tenente Colombo, insomma, sono questi personaggi, tra appunto il simposio di Platone e le affinità elettive l'estate è bella anche per questo, perché tornano. Lo so, mi ricordo che veniva trasmessa La signora in giallo due volte d'estate, no? la mattina e la sera. Sì, vero. È ovvio, è tutto un misto, no? L'estate è anche questo, no? La cosa straordinaria è che facciano sempre gli indici di share, come dire, voluti dalle reti, che infatti continuano a rimandare. Quello è un po' anche un mistero. Certo, io Colombo lo riguardo sempre, anche se sono perché puntata tu hai anche i DVD per ripassare. DVD, tutto, anche il ritorno di Colombo. Per me Colombo è proprio una sorta, insieme al basket, ho evitato la psicanalisi grazie a Colombo. Io ho una partita di basket o una puntata di Colombo. Però, insomma, i risultati televisivi restano sempre all'altezza. Ci sono, lo vedo. Magari non mi impegno a vedere un'altra trasmissione, anche perché la conoscono. Quindi mi fa piacere anche tenerla in sottofondo, aperta magari mentre stiro, mentre vero, cucino. Vero, vero. È una sicurezza anche che ci sia. Grazie Enrico. Il tuo sito è enricotamburini.it, ma anche cinepanettoni.it. E uno che ha un sito così è una garanzia. Grazie Enrico per essere stato con noi. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Senti, ma un po' di traffico. Un po' non di traffico, sentire. Poi rimaniamo in tema di televisione estiva, cinema estivo. Tra pochissimo. Radio Tube. Daniele, abbiamo parlato di quello che torna sì. nelle estati estive, il tenente Colombo, la signora in giallo, sono quelle cose che il ci fanno sentire... Il tenente Colombo nel mio cuore è sempre, torna. No, hai ragione, perché è proprio insomma il tuo più grande amore. Ma sai qual è il mio più grande amore estivo della televisione estiva fin da quando ero bambina? Da quando eri bambina? Sì, però non è una cosa dei miei tempi. Allora, quelle mattine d'estate in cui eri già a casa da scuola. Sì, ti vedo. Però non partivi ancora per il mare o per il lago. Ti però immagino. Eri a casa. Sì. e quindi accendevi la TV, perché insomma c'era tanto da fare, a giocare, stare con le amiche, però accendevi anche la TV. Sì, alla mattina. La mattina. A giocare il pomeriggio, sì, uscivi mattina, pomeriggio, mattina. E quali film facevano sempre? Facevano i musicarelli. Ecco, io non ho mai ben capito effettivamente qual è il genere dei musicarelli. Io ti confesso, cioè, che sono una teorica del musicarello. Ma ne tipo Morandi e la Efrikian c'entrano, no? C'entrano, c'entrano tanto. Ma io chiamerei in causa un esperto. Ha diretto un documentario davvero molto divertente, molto appassionante, dal titolo Nessuno ci può giudicare, ed è Steve Della Casa. Ciao Steve. Buongiorno, ciao ragazzi. Ciao. Allora, diamo una mano a Daniele, ecco, Bellasio, a orientarsi nel genere musicarello. Cioè Nino, allora, D'Angelo, per esempio. Nino D'Angelo è un tardo musicarello. Ecco, tardo musicarello. I musicarelli sono un genere che ha avuto il suo periodo di maggior splendore tra il 59 e il 70, e sono dei film ispirati alle canzoni per i giovani, perché film musicali in Italia ne hanno sempre fatti, no? Il primo film sonoro italiano si chiamava La canzone dell'amore, poi hanno fatto Mamma, hanno fatto tutti i grandi classici, però erano canzoni per tutta la famiglia. La grossa differenza dei film appunto con Gianni Morandi, con Caterina Caselli, con Celentano, con Mina, con Little Tony, con Rita Pavone e così via, era che erano rivolti a un pubblico molto giovane. Le storie erano molto semplici, ma i ragazzi, io ero tra quelli, andavano a vederli perché c'erano le canzoni e soprattutto perché si poteva vedere la faccia dei beniamini. Se tu non andavi a vedere quei film, avevi voglia di aspettare che la televisione facesse vedere, non so, Dino oppure i Rox oppure l'Equipe 84, non li passava mai, e invece al cinema si vedevano. Quindi c'era il traino della canzone del momento, la hit, certo, e le storie però diciamo che erano proprio così, piuttosto ingenue, carine. Sì, c'erano, guarda, però c'erano anche dei grandi attori che li hanno fatti, per esempio la mamma di Rita Pavone nella Zanzara era niente meno che Giulietta Masina, imprestata da Fellini alla causa. Beh, anche la regista era importante nei film di Rita Pavone. Sì, perché... assolutamente. Poi c'era il suo innamorato, era un giovanissimo Giancarlo Giannini. Nei film di Gianni Morandi, i genitori zii di Gianni Morandi sono Gino Bramieri e Raffaele Pisu, che adesso forse non se ne ricorda tanta gente, ma all'epoca erano famosissimi per la televisione, come erano famosissimi anche Nino Taranto e Dolores Palumbo, due attori napoletani che erano i genitori di Laura Efrikian. Non si capisse perché Laura Efrikian adesso è da Sento Veneto, avendo due genitori napoletani e vivendo a Napoli, ma questi insomma sono i segreti del cinema. Certo. Quindi i protagonisti dovevano essere persone famose, cantanti già famosi, sì, sempre. Sì. Ma... e devono cantare le loro canzoni più conosciute. A me piace molto la musica leggera. Io l'adoro. Senza la mia radiolina non so come farei a lavorare dalla mattina alla sera. Quali sono le sue cantanti preferite? Mina e Rita Pavone. Anche le mie. E i suoi cantanti preferiti? Fidenco e Endrigo. Anche i miei. Ha mai sentito parlare di Gianni Tra i Monti? No, è una voce nuova. Nuovissima. Deve ancora venire fuori. Sono io, Gianni Tra i Monti. Lei canta, complimenti. Mi farà sentire qualche cosa? Anche stasera. Io devo rincasare presto. Una canzone dura 3 minuti. Io voglio per me le tue carezze. Sì, io t'amo più della mia vita. Ritornerò in ginocchio da te. Ma esiste un genere che è un po' figlio dei musicarelli oggi? Ormai quel cinema lì non si fa, però io quando vedo, quando, cioè, ho visto, per esempio, io mi ricordo quello con, non so, Celentano e Federica Mori, che a un certo punto, sì, Celentano... Ma tu dici adesso, intendendo ancora gli anni Ottanta? Ah sì, beh, certo, io sono rimasto agli anni Ottanta. Ok, no, perché sì, sono 30 anni effettivamente. Però adesso diciamo che l'ultimo epigono potrebbe essere considerato quella fiction, Tutti pazzi per amore, in cui a un certo punto la gente si metteva a cantare, cantava canzoni recenti, canzoni passate, eccetera, diciamo. Ma al cinema del genere ci ha provato qualche tempo fa Max Pezzali, ha fatto con il famoso Jolly Blue, che non fu proprio una grande. Però questi in televisione funzionano sempre tantissimo. Il mattino di Rai, la domenica mattina e sabato mattina di Rai 3 sono praticamente prenotati. Io faccio degli utili ripassi ogni volta. No, è vero, verissimo, io li trovo deliziosi. Tra l'altro erano quasi tutte storie contemporanee, ma alcuni erano anche in costume, in maniera molto buffa. C'era il famoso Mezzanotte d'amore, che è la vita di Schubert, e Schubert è interpretato da Albano, quello rimane imperdibile, sì. Sì, perché Albano con l'occhialino suo, un po' più schubertizzato, esatto. Col capello con l'onda, bellissimo. Tra l'altro, nel tuo documentario, Nessuno mi può giudicare, hai intervistato, hai incontrato molti... quasi tutti, sì. Sì, protagonisti dell'epoca, che ricordo ne hanno? Beh, si diverte, insomma, mi ricordo molto divertito. Poi ci sono quelli che diciamo che lo storicizzano di più, come Shel Shapiro, che era capo dei Rocks, o Caterina Caselli, o Rita Pavone, o anche Gianni Pettenati, che fu famoso per Bandiera Gialla, sì. Questi diciamo riescono a storicizzare il fenomeno. Altri, Toni Dall'Aga racconta con grande semplicità, ma anche con grande divertimento, come li girava, con chi li girava e quanto si divertiva. Insomma, ci sono dei ricordi molto diversi, ma insieme viene fuori una cosa secondo me non sarà un capolavoro, ma credo sia abbastanza divertente. No, ma il tuo documentario è divertentissimo. Sì. Devo dire che sono talmente ingenui, puliti e buffi, che sono divertenti ancora quei musicarelli, tutto sommato, pur essendo fatti sempre con non tantissime risorse. In Fretta e Furia avevano un loro gusto. Beh sì, era il gusto di fare una cosa in fretta, farla sapendo che doveva piacere ai ragazzi, e quindi cercando di mettere tutte quelle parole che secondo i giornali i ragazzi usavano, che invece i ragazzi non usavano. Io non ho mai chiamato Matusa quelli più vecchi, però se uno legge i fumetti dell'epoca o appunto vedi i musicarelli, c'è addirittura Totò Matusa, insomma, insomma li farcivano di quelle cose, per cui sono diventati una specie di documento di quell'epoca, che musicalmente rimane una delle epoche forse più ricche, tant'è vero che se uno oggi accende una radio, diciamo che almeno un terzo delle canzoni sono da canzoni degli anni 60. È successo che qualcuno sia diventato più famoso come cantante dopo il musicarello piuttosto che prima? No, sinceramente no. Musicarello, cioè erano già star. Sì, erano un hit, dovevano averla fatta. No, diciamo, c'è Lucio Dalla che fa piccole parti e diventa famoso dopo, perché Lucio Dalla comunque la sua popolarità esplode negli anni 70, quando il fenomeno era già finito. C'è Renato Zero, che Renato, è magrissimo, appare come ballerino in 2 o 3 film, balla con Gianni Pettenati in Bandiera Gialla, del film omone Ragazzi di Bandiera Gialla, ed è quasi irriconoscibile, filiforme proprio. Beh, lui diventerà famoso dopo. Nei balletti che circondano Rita Pavone c'è anche una giovanissima Loredana Bertè, ma anche lei diventerà famosa successivamente. Steve, tu ti sei inventato il tour per presentare il documentario, perché adesso i documentari cominciano a guardarsi anche in sala, non è proprio una vita facilissima però. No, vabbè, insomma, però devo dire che nelle città in cui sono andato un po' di gente c'era, e quelli che c'erano si erano divertiti. Poi io in realtà mi diverto a parlare di quel periodo lì, quindi non lo considero una fatica, insomma. Poi viaggiare tutto sommato, per una cosa che hai fatto tu, è sempre una cosa piacevole. Verissimo, verissimo. Poi tu hai sempre questo cotè di conoscitore dei luoghi. Devi sapere, Daniele, che quando uno va in un posto e deve sapere dove andare a mangiare bene, si chiede sempre a Steve, perché Steve sa da generazioni. Lui è un esperto. E infatti sono un personaggio di peso anche per quello. grazie a Steve della Casa. Tenete d'occhio il tour del documentario Nessuno ci può giudicare, un film a 45 giri, bellissimo il sottotitolo. Grazie per essere stato con noi, Steve. Ciao. Ciao ragazzi, ciao. Ciao, grazie. Steve, e ovviamente tenete d'occhio la programmazione televisiva, perché appunto ci sono già. Divertiamo tantissimo. Che dici? Daniele, una breve pausa, sì. Poi tra poco ci troviamo. Notte di lacrime, preghiere. La matematica non sarà mai il mio mestiere. Una notte da paura, una notte di passaggio, una notte che è anche una festa. Insomma, una notte da vivere e da rivivere. È la notte, prima degli esami. Sono Federico Taddia e insieme alla cantante Mariam Mirage vi aspetto martedì 20 giugno dalle 21 alle 24. 3 ore di voci, di sogni, di racconti, di maturandi, di testimonianze, di consigli, di attori, scrittori, artisti, per prepararsi insieme all'esame di maturità. La notte prima degli esami. Una notte che è tutto un programma. Ovviamente su Radio 24. In collaborazione con scuola.net. E ogni giorno sulla pagina web di Cuore e Denari un consiglio pratico per affrontare al meglio la prova. Notte. Radio Tube. Mezz'ora che abbiamo fatto di già estate, pre-estate. Siamo a metà giugno, però abbiamo parlato di Musicarelli, sì, di commedia film, all'italiana di musica, estive, sì. Di io il prossimo ospite non lo voglio. Perché non lo voglio? No, non lo voglio perché... È in studio, lo vuoi tu l'hai fatto entrare, ma io non lo vorrei. Perché non lo vuoi? È andato prima da Ricci. Siamo amici. Sei arrabbiato. È andato prima da Olimpia. E da, allora da sei arrabbiato. Ricci. Cioè, lui è andato prima... A dir la verità era già venuto, era già da, venuto noi. Da noi, quindi per, comunque... da noi per primo. Vabbè, allora lo accettiamo. Allora è con noi un bravissimo collega del Sole 24 Ore che ci aveva annunciato che stava completando un documentario e siccome abbiamo parlato di cose acquatiche balneari ci sta benissimo perché si intitola I pesci combattenti. Ma chi saranno mai questi pesci combattenti? È un documentario molto bello con un tema molto importante. Bentornato a Riccardo Barla. Ciao al mio amico Daniele. Allora, ma chi sono i pesci combattenti? I pesci combattenti sono 7 ragazzi e ragazze, 7 sì. Campioni di nuoto paralimpico che nessuno sa, si allenano a Milano. E uno dice ma perché vai a Milano a allenarti se vivi in Sardegna? C'è una parte del film che dice questo, perché a Milano c'era questo gruppo, questa squadra bellissima che, di ragazzi tra i più forti al mondo di nuoto, e sono quelli che hanno preso le medaglie alle Olimpiadi a Rio. A Milano chi ha vinto le medaglie alle Olimpiadi e Paralimpiadi sono questi ragazzi qua, e quindi io ho fatto una storia, un film su di loro, e abbiamo appena presentato in prima visione qualche settimana fa con un po' di ex campioni olimpionici, Antonio Rossi, Oreste Perri. E, Antonio Rossi che peraltro, Marta, no? Sì, tu che un bel ragazzo anche delle mie parti. Beh, ha vinto un sacco di medaglie d'oro. Sì, sì, certo, sì, un bel ragazzo delle mie parti. Ah, è delle tue parti? E beh, di Lecco. Ah, è vero. È uno di quelli che fa politica ma sportivo vero, quindi certo. Ha appena visto il film ha detto no, questo lo diamo nelle scuole, lo facciamo nelle scuole. Insomma, e questa cosa, siamo arrivati alla parola fine, ecco. La mia prima volta in acqua è stata più o meno all'età di 3 anni, è stato per un consiglio più che altro medico, per riabilitazione, per stare un po' bene con la schiena, perché con la protesi avevo molti scompensi. I miei genitori mi hanno iscritto in piscina e c'era questo corso in cui c'era una persona che seguiva tutti gli altri. Dopo 2-3 lezioni me ne andavo in giro per i fatti miei e 2 allenatrici erano tutte per gli altri. Ed è stato, credo, un passaggio abbastanza naturale da quel bambino di 3 anni che galleggiava in acqua, se la cavicchiava, a quello che sono oggi. Ma raccontaci come ti è venuto in mente, come allora, hai iniziato a farlo. È come... un po' lunga la storia, io cercherò di essere molto molto molto breve. Tanto Marta ti fa gli occhi con i mi sono messo un giorno in gioco con loro, mi sono messo a nuotare con loro. Sapete, io faccio questa cosa di sport, terapia, faccio le gare di endurance così. No, e tu fai l'Ironman. No, sì, è una roba che l'idea, fanno 3-4 al mondo. È un collega del Sole 24 Ore che fa l'Ironman. 1600 italiani, tra cui 400 donne l'anno scorso. E quindi lo sport come terapia, come sì, terapia della vita, antidepressivo, come cosa che ti mette a posto i pezzi, un po' questa è la mia idea. E un giorno mi sono messo a disposizione del loro allenatore, gli ho chiesto posso venire in vasca con voi e mi vedi come mi muovo, come il movimento, la tecnica, così magari miglioro un filo i miei tempi da tartaruga. E mi sono messo lì, lui mi ha messo vicino alla categoria di una delle ragazze che va più piano, che ha una disabilità maggiore. Il nuoto paralimpico, a seconda della tua disabilità, fai le gare con le persone che hanno la tua stessa disabilità, quindi certo. Ipovedenti, poi persone che hanno un problema a un braccio, fino alle categorie più basse, da S10 maggiore mobilità a S1 la minore. Io ero vicino a un atleta che è S4, si chiama Mario Latrini, campionessa del mondo di 150 sia libero. Mondo, e lei fa stia libero senza l'uso delle gambe, ecco. E io dopo tipo 10 minuti ho alzato le braccia e ho detto all'allenatore: no, guardate, io esco perché sono troppo scarso, il disabile è qua, sono io. E da qui è nata l'idea di raccontare la storia di questi ragazzi, anche perché questa stessa Rio Altrini qualche settimana dopo ha fatto il record mondiale sui 100 stile libero. Pensate, Federica Pellegrini quando era proprio forte forte un po' di anni fa, anche adesso è forte, ci sono i mondiali a luglio, se mi sentisse, però qualche anno fa faceva 53 e qualcosa sui 100 metri, che sono due vasche lunghe lunghe, e Ariola ci ha messo 1,26 senza le gambe, e pensate che roba. Quindi, peraltro, Federica Pellegrini è una delle voci narranti di questo film, perché poi questa storia è andata avanti pian pianino, cioè è partita così come hobby, così, però poi ho detto: ma io lo voglio fare, lo autofinanzio, lo autoproduco, così. Poi piano piano abbiamo trovato degli sponsor che hanno coperto le spese di produzione, che ci sono, e anche se è un prodotto a basso costo comunque ci sono, e non sono da poco. E diciamoli: Banco BPM, soprattutto, poi una fondazione Orogel, PLT Energia, una società di eolica, e un gruppo edile che si chiama Edilizia Acrobatica, che sono quelli che salgono sul Colosseo con i free climber muratori, diciamo così. E quindi hai raccolto la voce di Federica Pellegrini e Nicola Savino, che fa una parte bellissima, fratello interista che salutiamo, e Linus grande, poi, non interista purtroppo. Poi Moby mi ha dato le musiche, incredibile ma vero, il pazzesco, DJ Moby. Cioè tu hai scritto a Moby e gli hai detto: Moby ti ha dato le musiche. Sì, gli ho detto guarda, sto facendo questa cosa qua, che dici? Gli ho mandato un po' di girato e lui mi ha rimandato: ok, prendi le musiche che vuoi. Lo stesso Paolo Fresu, jazzista molto noto a livello internazionale, anche un po' in Italia, abbastanza direi, e due parti molto belle del film, ci sono le sue trombe. E è uscita fuori questo racconto, mi sembra molto emozionale, in cui viene fuori la dimensione sportiva di questi ragazzi, e appunto come atleti, e quindi mi sembra che dia un po' di gloria a loro. Loro sono Federico Morlacchi, sono sette, comunque Federico Morlacchi è l'atleta italiano che ha preso più medaglie a Rio, famoso, infatti. 4 medaglie su 5 finali. Perché pesci combattenti? Perché una di queste ragazze, che si chiama Arianna Talamona, ha un tatuaggio che è un pesce combattente. Tra l'altro Arianna è campionessa europea, si sta per laureare in psicologia, è una bellissima ragazza, e a 16 anni, quando a un certo punto questa cosa del pesce, del tatuaggio, lei lo racconta nel film, è il momento in cui ha capito che la sua condizione anche di disabilità non era così grave per lei, questo non le impediva di sfidarsi, di avere degli obiettivi anche alti, come quello di fare sport a questi livelli. E quindi lei, il papà e la sorella sono andati da un tatuatore, si è fatta tatuare questo pesce combattente, che è un pesce piccolino, diffuso nelle acque calde asiatiche, ci fanno i duelli come i cani, no? Fanno le scommesse in Asia, ed è un po' un simbolo di mi sembrava che desse un po' l'idea di questa storia. Io all'inizio pensavo a un titolo tipo La meglio gioventù, La migliore gioventù, però ci ha pensato già qualcuno per un altro film. E quindi vabbè, pesce combattente ci stava, perché in acqua, perché non mollano, perché nonostante tutto e la loro disabilità, questi la mattina si alzano e combattono. Io mi appassiono allo sport paralimpico, appassionandomi come a uno sport non paralimpico, cioè non mi piace farmi prendere dall'emozione o dalla storia della lotta, del riscatto. A me piace la prestazione sportiva, perché mi piace la normalità dello sport paralimpico. Come hai fatto a non cadere invece nel racconto del guardate quanto sono forti, quanto ci possono insegnare? Ti ricordi che ne parlavamo, era proprio il tuo obiettivo. Sì, che è il rischio sempre dietro l'angolo. Io non volevo fare la cosa emotiva, oddio poverino, poverino. Questa cosa del poverino a loro dà molto fastidio. Ma giustamente, sono atleti. E quindi pensate che loro si allenano ogni giorno in acqua 2 ore e mezza, e prima delle Olimpiadi erano 5 ore di acqua al giorno. E quindi con dei ritmi pazzeschi, tra l'altro con difficoltà, perché non hanno gli spazi vasca, quindi il comune di Milano, che gli dava una certa piscina, a un certo punto dell'anno non c'era più questa piscina, doveva andare a Varese, a Lodi, quindi prendere la macchina, viaggiare, insomma una serie di problemi che persone che magari ipovedenti devono trovare chi ti porta, insomma. E l'idea era proprio questa, di raccontare loro come atleti, come per quello che fanno, ma anche per quello che sono. Per questo La meglio gioventù, perché loro fanno quello che fanno con passione, ci credono fino in fondo, i soldi ne hanno pochi, gli sponsor ne hanno pochi, non finiscono sui giornali patinati, però come dire, guardare le loro storie. Beh, però in televisione poi cominciano ad andarci quando trasmettono le Paralimpiadi. Sono quest'anno hanno avuto 4 miliardi di telespettatori. Appunto. Quindi. A questo proposito, io vorrei vedere I Pesci Combattenti in televisione. Quindi io aspetto buone notizie. Speriamo qualche TV ce lo trasmetta. Io penso che sarà più probabile che, insomma, penso che il tour dei documentari è una cosa comune. Ti è piaciuto lo stile della casa, che ti è piaciuta l'idea. Sarà più semplice avere un premio internazionale. Così unisci la presentazione del documentario e un Ironman, una cosa in bicicletta, perché lui fa qualunque cosa, bici, corre. Poi ti dice che è normale, ti dice no, ma puoi venire. Senti, no, vabbè Riccardo. Basta allenarsi. La domanda che ti voglio sempre fare, forse non te l'ho mai fatta, del triathlon, quale dei tre preferisci? Adesso il nuoto, perché ho imparato, grazie all'allenatore della Nazionale Paralimpica, ho imparato un po' di più nuotare, quindi faccio meno fatica. Perché invece nasci come bicicletta. E vedi? Quello che è più duro nel triathlon è la fine, che è la corsa, e insomma, quando dopo 4 km del nuoto, 180 di bici da solo, devi fare la maratona, quindi da Milano a Bergamo di corsa, è veramente una cosa. Sì. Devi essere molto preparato mentalmente. Come diceva Forrest Gump, mi però sento ce la un puoi po' fare. Stanchino. Cioè, no, un po' stanchino. È una cosa che ti fa capire le risorse che abbiamo dentro di noi, che sono immense. Io, anche stando con questi ragazzi, ancora di più sono convinto che dentro di noi ci sono delle risorse, se solo abbiamo voglia di tirarle fuori, delle motivazioni. Lo teniamo d'occhio, I Pesci Combattenti, di Riccardo Barlam. Ecco, e se volete, io non so ancora bene dove e quando, ma c'è una pagina Facebook, sul mio profilo Facebook, se volete sapere dove lo presenteremo, ecco, lì, sempre aggiornato. Bravo. Grazie Riccardo Barlam, vienici a trovare quando vuoi, tanto scendi le scale. Scendi dalla redazione di Finanza. Sì, poi Iron Man, mica ci deve fare. Ma sai che lui veniva in bicicletta a 34 km anche in Irlanda? Anche oggi, vedi? Ma certo. Fai il ritorno. Ma certo, ma si vede la differenza, l'hai guardato me? E poi hai guardato guarda, ha fatto lo sguardo, vero. Come dire, si vede la differenza. Ma dai, una breve pausa e saremo ancora insieme. Grazie Riccardo Barlam. Ciao a tutti. Radio Tube. Ed eccoci insieme per l'ultimo blocco. Ma che belle storie abbiamo raccontato, ma I Pesci Combattenti, le nostre passioni d'estate. Però in questo periodo noi stiamo un po' tenendo d'occhio anche le evoluzioni dei social. Sì, le tendenze. Perché noi ormai abbiamo incominciato con RadioTube un secolo e mezzo fa. Cioè eravamo avanti all'epoca, all'inizio eravamo avanti. Era un tema, adesso ormai è un tema quotidiano, quello dei social network. Però tu fatichi sempre a stare appresso. Sì, perché te. C'è sempre qualcosa di nuovo. Allora io tengo molto quest'ultimo blocco. Ma sai perché? Perché io non sono un, diciamo così, un giornalista oppure... Non ho una visione visuale delle storie. Una visione visuale, si può dire? Cioè, non mi viene in mente, come prima cosa, faccio un video. Sì, ma serve il video. E invece è completamente sbagliato, perché, come sai, le tendenze, tutte le statistiche... Qualche giorno fa leggevo che nel giro di 2 o 3 anni, 2/3 delle cose che faremo col telefonino sarà vedere video. Certo. E poi social network, Facebook Live... Invece a me viene subito questa cosa del video. Sarà la mia formazione, esatto, a me viene subito il video. La tua formazione, mia è molto più tradizionale, cartacea, sono vecchio dentro, probabilmente. Non lo so, sai chi mi diceva già da anni, attenzione, guarda che sui social si farà soprattutto video, questo, blah, blah, l'ospite che abbiamo al telefono. Si chiama Alessandro Parodi, oltre ad essere un amico è un blogger, ma soprattutto è un esperto di social live streaming. Ciao Alessandro! Ciao Daniele! Social live streaming, ci spieghi un po' qual è il tuo ambito di interesse? Allora, social live streaming, per dirlo in modo molto semplice, sono le dirette che si fanno attraverso i social network, quindi Periscope e Facebook Live sono le principali, che è un ambito interessante di sviluppo sia per le aziende che per il pubblico, per il privato, per l'intrattenimento. Pubblico, privato, intrattenimento, giustamente aziende, anche aziende, esatto. Ormai chiunque di noi fa dei video appunto su Facebook, fa dei video su Instagram, fa le stories di cui abbiamo parlato, quelli molto brevi che vanno su Instagram, su Snapchat, ma ormai sempre di più anche l'informazione. Sì, anche se vi ascoltavo, in realtà nel mondo dell'informazione sono più persone come Daniele che come te. c'è un po' di resistenza, c'è un po' di resistenza nei confronti del mezzo video, no? Poi quando vedono le visualizzazioni, quelli dei siti dicono però tutto sommato, No, comunque i social network ci scommettono moltissimo. Per esempio Facebook ha appena annunciato che ci si potranno mettere i sottotitoli a Facebook Live. Twitter e Periscope, che so che è un tema a te molto caro, Alessandro, da tempo hanno messo in qualche modo assieme... diciamo che Periscope per certi versi in questo è stato il primo strumento utile, se vuoi raccontarcelo. Sì, Periscope è stato il primo, quello che ha lanciato questa grande rivoluzione in realtà, che sembrava potesse travolgere anche gli altri mezzi di comunicazione, la televisione, e anche quello che l'ha sviluppata meglio, perché per esempio al contrario di Facebook Live, Periscope dà delle possibilità anche dal punto di vista professionale molto più interessanti, ci si può collegare con strumenti proprio televisivi, fare un live streaming come fosse una vera diretta televisiva. In realtà il problema grande del social live streaming è l'aggregazione di contenuti, perché ci sono tantissimi contenuti. Ecco, spiegalo bene anche a mia mamma, diciamo, che magari sì, conosce Facebook, però in che senso il problema è l'aggregazione? Il problema è che ogni giorno, ogni minuto, vorrebbe da dire, vengono creati tantissimi, migliaia, milioni di contenuti video. Il problema è come facciamo noi a trovare, detto in maniera molto semplice, i contenuti più interessanti. Il problema non è ancora stato risolto in realtà totalmente, perché non esiste un aggregatore. Ecco, diciamo, dal punto di vista tecnico Periscope, cioè Twitter, ha lavorato meglio. Dal punto di vista invece di questo dell'aggregazione dei contenuti, forse ha lavorato meglio Facebook, perché ha inserito le sue dirette all'interno, come si può dire, di una rete relazionale che diventa già un po' di suo un aggregatore. Perché c'è la selezione del gruppo di amici e dei collegamenti tra le varie persone. Esatto. Io ho sempre trovato molto utile di Periscope la geolocalizzazione. Sì. Cioè, se io so che è successo qualcosa di importante in un luogo del mondo e voglio vedere se qualcuno sta trasmettendo in diretta, vado a vedere quel luogo. Esatto, guarda. Questa cosa qui è molto interessante anche dal punto di vista di cui parlavamo, dell'aggregazione. Cioè, l'ideale sarebbe costruire un soggetto, una testata o un sito che raccoglie i migliori contenuti, e lo faccio anche dal punto di vista dell'informazione. Poi al giornalista tocca mediare, raccontare, interpretare. Giustamente parlavamo, ti chiedo scusa Marta, di informazione. Uno degli strumenti che l'informazione sta in qualche modo cercando di capire è quello dei video a 360 gradi. Ecco, questa era proprio la domanda che avevo anch'io in canna. No, perché New York Times, BBC, qualcosa anche in Italia si sta facendo. È uno strumento anche questo potentissimo, al di là dell'aspetto, diciamo, legato alla diretta live. Il video a 360 gradi, molte aziende iniziano a presentare i loro prodotti con video a 360 gradi, ti permette da un certo punto di vista di costruirti tu la storia, perché a seconda di dove vai e di dove guardi vedi un lato della tua storia, Alessandro. Sì, intanto io farei una piccola distinzione tecnica. Vai. No, ci sono i video a 360 gradi e la VR, cioè la realtà virtuale, che sono due cose diverse ma possono essere anche complementari. Vero. Ecco, la VR, la realtà virtuale, è una realtà, un ambiente in cui ci si immerge digitale, però digitale è costruito, ecco, viene costruito a tavolino e noi, sempre utilizzando lo stesso strumento che può essere il visore oppure il nostro schermo mobile, però una realtà costruita, e questo si usa soprattutto per i giochi, per i videogame, ma anche può essere utilizzato per esempio, non lo so, dai musei o dalle biblioteche per dei tour virtuali. Invece il video a 360 gradi si tratta di una produzione come un video normale, soltanto che ci si immerge dentro, c'è chi lo realizza che dà un punto di vista. Questo è importante, secondo me, sottolinearlo, perché l'illusione è quello di di essere realmente in un posto. Per esempio Daniele parlava dei video della, a 360 gradi del New York Times, che ha realizzato dei video per esempio alla Mecca, durante il pellegrinaggio alla Mecca. E se provate a scaricare questa app del New York Times e vedere questo video, sembra di essere proprio lì. Soprattutto si utilizza, oltre al visore, anche le cuffie. Questo è molto importante. Devo dire che le aziende sono molto ingolosite da questa cosa, però anche per l'informazione è una bella sfida. Sì. Anche perché questo ti permette, diciamo, di far immergere il lettore nello strumento che stai utilizzando, ma nello stesso tempo di trattenerlo a lungo sul tuo sito, nel tuo ambiente. Come si vede che questi, no, questi problemi ti toccano, mi toccano nel profondo. Alessandro, poi, se vogliamo, questa risolve un po' il problema di cui abbiamo parlato prima, perché esiste una possibilità di essere lì, se vogliamo, anche in diretta, però comunque c'è, attraverso la regia, anche una mediazione, no? Da parte di chi lo realizza. Certo. Che meraviglia, molto. Grazie, molto Alessandro. Molto bello. Ti abbracciamo. Dobbiamo aggiornarci sempre. Anche a voi. Ciao. Grazie Alessandro Parodi, ciao. Grazie. Daniele, il tempo è volato punto, anche guarda, con questa a questo YouTube. Punto sì, dovremmo fare un video bagno. 360 del nostro studio. Stanno abbassando i prezzi, però comunque insomma, ci sono strumenti, ne parlerai con il paglia. Magari. Esatto, dovremmo imparare a fare un sacco di cose nuove. Allora, dobbiamo ringraziare tantissimo la nostra Valeria Bernardi di in regia. Più di tantissimo. È stata una puntata bella, balneare, ricca di tante cose. Cristian Goldoni anche... non lo vuoi salutare? Sì, Cristian sempre. Senza di lui non può andare in onda Radio Tube. Grazie Daniele Bellasio, al prossimo sabato. Ciao.